Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi porteremo su un'isola non molto lontana dall'Italia, dove si parla diffusamente la nostra lingua e dove è ancora forte il retaggio della cultura inglese e anglosassone. Generazione Mobile approda per la prima volta a Malta, paese europeo ben ancorato nel cuore del Mar Mediterraneo che, a dispetto delle sue piccole dimensioni e della sua limitata superficie, è in grado di offrire interessanti opportunità professionali. Insieme a noi un giovane professionista al lavoro presso la concessionaria maltese di una multinazionale americana. Con lui, ma non solo, esploreremo le possibilità di lavoro sull'isola, soprattutto per chi può vantare un buon livello di inglese. Federico Fabiani e le sue, come sempre, puntualissime segnalazioni all'interno della rubrica Toolbox spianeranno la strada alla puntata odierna, che si arricchirà con le dritte sui trend di lavoro a livello globale insieme ad Alessio Romeo in Job Abroad, e si chiuderà, come di consueto, il primo sabato del mese con l'indicazione di un paese dove andare a fare impresa, sempre che vogliate ovviamente tentare la strada imprenditoriale. Andiamo ora a prenderci gli ultimi raggi di sole prima che sbocci definitivamente l'autunno, trasferendoci a Malta e scoprendo quali sono le opportunità internazionali per voi giovani talenti che al Mediterraneo non intendete proprio rinunciare. Rotta verso la Valletta. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce lo offre una curiosa classifica dell'associazione Internations specializzata nel mondo degli expats su scala globale. Ebbene, secondo questo ranking sono Messico, Bahrain, Ecuador, Colombia e Panama, quasi tutti i paesi centro e sudamericani, le nazioni dove è più facile stringere amicizia e inserirsi socialmente quando ci si trasferisce oltre confine. All'opposto sono Danimarca, Kuwait, Svezia, Norvegia, Svizzera e Finlandia, guarda caso quasi tutti i paesi nord europei, le nazioni dove è più difficile fare nuove amicizie. Bene, è il momento di passare alla rubrica Toolbox, dove torna oggi a farci compagnia lo spazio informativo realizzato in collaborazione con il portale Scambi Europei. Ogni due settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi anche oggi Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana, selezionate dalla redazione. E partiamo da un'opportunità offerta dal Dipartimento di Economia e Politiche Sociali delle Nazioni Unite, che offre a giovani laureati la possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale all'interno delle organizzazioni internazionali nei paesi in via di sviluppo. Si tratta del Fellowship Program 2020-2021, che prevede delle borse della durata di circa un anno, con un corso di formazione di 2 settimane prima della partenza. I requisiti sono non aver superato i 28 anni di età, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, aver conseguito una laurea magistrale o una laurea triennale più un master. È previsto un rimborso spese mensile per vitto, alloggio ed altre necessità, il biglietto aereo andata e ritorno, un'assicurazione medica per l'intera durata del tirocinio. La scadenza per candidarsi è il 30 ottobre e sul nostro sito, oltre a tutte le informazioni su questa opportunità, trovate anche le date dei webinar informativi organizzati dalle Nazioni Unite. Ci spostiamo ora in Francia, dove l'emittente radiofonica Euraudio, che dal 2007 è nata con lo scopo di parlare dell'Europa in maniera concreta ai cittadini, è attualmente alla ricerca di studenti interessati a svolgere un periodo di stage di 5 mesi nelle sue sedi di Lille e di Nantes. Gli stagisti riceveranno una formazione completa che va dall'apprendimento del processo editoriale fino alla gestione di una radio. I requisiti per candidarsi sono essere studenti di giornalismo, media e comunicazioni, scienze politiche, affari europei o altre materie rilevanti, possedere un buon livello di conoscenza del francese, avere familiarità ed interesse verso lo strumento della radio e dei nuovi media ed essere in grado di sottoscrivere una convenzione di stage, ad esempio con la propria università. È previsto un rimborso mensile di 500 euro cumulabile con altre eventuali borse di studio e lo stage si svolgerà tra febbraio e luglio 2021. Rimaniamo nell'ambito dei stage, ma ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano. Andiamo infatti a Washington, dove la Banca Mondiale sta offrendo tirocini retribuiti a giovani studenti interessati ad approfondire le tematiche economiche e sociali in un contesto internazionale. Per candidarsi a questi tirocini retribuiti è necessario essere iscritti ad un corso di laurea magistrale o dottorato, preferibilmente in economia, scienze sociali, agricoltura, ambiente e sviluppo o altri settori rilevanti. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e la conoscenza di un'altra lingua tra francese, spagnolo, russo, portoghese o cinese costituirà un valore aggiunto. È previsto uno stipendio mensile per gli stagisti e i periodi di svolgimento dello stage sono tra novembre e marzo per il tirocino invernale e tra maggio e settembre per quello estivo. Chiudiamo con un'offerta che arriva dalla Svizzera, dove, come ogni anno, vengono assegnate delle borse di studio da parte del governo per promuovere lo scambio internazionale e la cooperazione nella ricerca. Queste borse di eccellenza sono destinate a ricercatori e artisti stranieri che vogliono appunto studiare e lavorare nel paese. Per le borse di ricerca possono candidarsi i ricercatori diplomati di tutte le facoltà che intendono svolgere un soggiorno di ricerca o una formazione continua di dottorato o postdottorato, mentre per le borse artistiche possono candidarsi gli studenti di discipline artistiche in possesso del titolo Bachelor che vogliono conseguire il loro primo master in Svizzera. L'entità delle borse varia da un minimo di 1.900 fino ad un massimo di 3.500 franchi svizzeri al mese, in base al progetto di ricerca presentato dai candidati. Per tutti i dettagli sulle singole borse potete visitare il nostro sito. Il testimone della settimana è un manager 32enne esperto di marketing che a Malta ha trovato, è proprio il caso di dirlo, la sua isola del tesoro. Come si sposano un ambiente profondamente mediterraneo con un panorama lavorativo ancorato al mondo anglosassone? Beh, ce lo spiegherà tra poco lui stesso. Buon pomeriggio Andrea Consalvo Rifici. Buon pomeriggio Sergio. Laurea in economia del turismo e dell'ambiente in Italia, ti trasferisci a Malta per la specialistica in marketing e comunicazione. Perché proprio Malta, quale paese di approdo per proseguire la carriera formativa? Cosa ti ha portato lì? Guarda, dopo essermi laureato a Messina ho discusso con un mio caro amico che viveva a Malta e lui mi ha consigliato di venire qui per studiare inglese e fare la specialistica. Cercavo un'esperienza internazionale, per questo ho deciso di frequentare la specialistica in Integrated Marketing Communication offerta all'Università di Malta e il King's College a London. Ho subito visto la differenza. In Italia ci concentriamo molto di più sulla teoria, qua molto di più sulla pratica. Dopo la laurea viene assunto come manager nel Nativity Museum di Malta, passi nel settore marketing prima di venire assunto come brand manager per General Soft Drinks. Di cosa ti occupi ora? Parla, General Soft Drinks è l'imbottigliatore indipendente di Coca-Cola e io come brand manager mi occupo di creare business plan, strategie di promozione per i miei brand. All'estero si ha la grande opportunità di essere valorizzati, infatti nel 2018 uno dei miei progetti è stato scelto come best case per mostrare e condiviso con tutti gli imbottigliatori di Coca-Cola. In più un altro vantaggio che vedo nel lavorare in una multinazionale sta nel fatto che si imparano i migliori metodi sviluppati in Europa e in America. Anche per orientare i giovani che sono all'ascolto e vorrebbero lavorare nel tuo settore, sappiamo è molto ambito, quali sono le leve di marketing che fanno parte integrante del tuo lavoro? Guarda, io come brand manager mi occupo di aumentare il valore percepito delle mie brand e come giustamente detto utilizzo le leve di marketing. La prima è il prodotto, in questo caso non lo sviluppo io ma solo scelgo quali prodotti lanciare a Malta. La seconda leva di marketing è il prezzo, in questo caso sono io a scegliere quali sono i prezzi ideali per i miei prodotti a Malta. Poi la distribuzione, con il sales team decidiamo i target e in quali negozi vendere i prodotti e poi le strategie di promozione. Dobbiamo promuovere il prodotto tramite digital, tramite mainstream media come i giornali oppure con attivazioni nei supermercati. È un lavoro molto interessante. Allora Andrea, passiamo ai tuoi consigli pratici che come sempre iniziano dalla ricerca di lavoro. Quale lingua o quali lingue serve conoscere per lavorare a Malta? Partiamo proprio dall'inizio. La lingua, prima di tutto, devo dire che è indispensabile per trovare lavoro. E Malta è un paese bilingue. Infatti ci sono due lingue ufficiali, l'inglese e il maltese. L'inglese è la lingua utilizzata in tutti i business e quella fondamentale, requisito minimo per trovare lavoro. Il maltese di solito non è un requisito indispensabile, ma è un plus. devo essere onesto, anche molti maltesi parlano l'italiano, ma non si può aspettare di trovare un lavoro parlando solo l'italiano. Esatto, insomma, non sediamoci sugli allori. Quale formazione è meglio avere per procurarsi delle chance di lavoro sull'isola? Parliamo proprio appunto di curriculum formativo. Guarda, quello che io consiglio, ci si dovrebbe concentrare su lauree, master in business, marketing, finanza e IT, che aprono molte porte. A Malta vengono migliaia di stranieri ogni anno a cercare lavoro, quindi la competizione è molto elevata e quello che consiglio è sempre di far tradurre il proprio titolo di studio in inglese, così si hanno opportunità di poter ottenere il lavoro dei sogni. Tra l'altro ricordiamo anche che Malta è una piccola isola, 400.000 abitanti, quindi la concorrenza si amplifica. A proposito di curriculum, come deve essere il curriculum perfetto per trovare lavoro sull'isola? Allora, il curriculum è lo strumento fondamentale che permette di illustrare le proprie competenze e i titoli di studio. Quello che io suggerisco è che il curriculum debba essere conciso, massimo 2 pagine, perché gli HR manager ricevono decine se non centinaia di curriculum. In più, un altro consiglio che do ai giovani è quello di mettere esempi. Per esempio, se avete lavorato, dite: grazie al mio business plan, grazie alla mia pubblicità, la compagnia ha aumentato il fatturato del 20-30%. Questi numeri sono molto importanti. Un altro consiglio: non mentite mai, perché potreste ottenere lavoro, ma avreste scoperti, non passereste il periodo di prova e intaccereste la vostra reputazione. In un'isola piccola come Malta sarebbe la fine. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Andrea Consalvo Rifici, 32enne brand manager a Malta. Andrea è approdato sull'isola mediterranea fin dal periodo della formazione superiore, poi vi è rimasto cambiando più volte lavoro e oggi è in onda con noi per darvi indicazioni preziose su come cercare la vostra personale opportunità nel sud del continente. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Andiamo ai settori dove vedi maggiori opportunità per giovani professionisti a Malta, magari giovani professionisti con proiezione internazionale. Partiamo anche dalle esperienze che è meglio fare e arriviamo proprio ai settori dove vedi più opportunità. Allora, iniziamo con i settori. Io vedo grandi opportunità nel settore dell'IT, nel settore del marketing, finanza e il gioco d'azzardo. Lauree, diplomi che aprono le porte per questi settori ovviamente sono quelli in business, MBA soprattutto, o soprattutto in IT. E quello che suggerisco è anche di focalizzarsi molto sui numeri. I data analyst sono anche molto ricercati, lo posso vedere tutti i giorni. Io quando ho iniziato a fare marketing pensavo che fosse tutto brand awareness, invece no, i numeri giocano un ruolo fondamentale in ogni settore del business. Come cercare lavoro a Malta? Tu suggerisci 2 canali, uno è online, e quindi in questo caso ti chiedo anche magari quali siti consultare, l'altro invece è offline. Spiegaci meglio. Allora, c'è il classico LinkedIn, che ormai sta diventando sempre più importante in tutta Europa e nel mondo, ma poi ci sono anche siti locali, per esempio Keep Me Posted, dove ci sono tutti gli annunci di lavoro a Malta. Offline ci sono le agenzie di collocamento, per esempio JobPlus, che è l'agenzia del governo, e anche consiglierei di non sottovalutare il networking e Career Day, che aiutano molto a trovare lavoro. Esatto, quindi curate anche la vostra immagine professionale, tu suggerisci. Come prepararsi al colloquio di lavoro, Andrea? Allora, quello che io suggerisco è sempre quello di studiare la compagnia, studiare quali prodotti la compagnia vende, quali servizi, qual è la cultura della compagnia. Si può scoprire molto online o anche chiamando amici che già lavorano nella compagnia. E un'altra cosa che spesso viene sottovalutata è quella di studiare chi è l'HR manager. Si va su LinkedIn, vedete l'esperienza che ha, da quale settore viene. Questo aiuterà molto nel capire quale tono utilizzare durante il colloquio, quale dress code. E magari grazie a questi piccoli trucchi riuscireste a trovare il lavoro dei vostri sogni. Passiamo alla vita pratica a Malta. Dove e come cercare casa? partendo dai siti, ma anche dando un'idea di quanto può costare un affitto mediamente. Allora, dipende molto da quello che si vuole fare. Se si vuole risparmiare, io consiglio sempre di andare nel sud o nel centro di Malta, mentre le zone più turistiche come Lima, St. Julian, hanno affitti più costosi. Per esempio, un monolocale prima del Covid veniva 700-800 euro. Ovviamente nelle zone turistiche ci sono molti più servizi, ci sono molti più stranieri, c'è anche la movida, quindi dipende da quello che si vuole fare. Un altro consiglio, Malta è piccola, se avete una macchina, uno scooter potete trovare casa ovunque e potete, diciamo, attraversare l'isola in massimo un'ora o anche di meno, dipende dal traffico. Come trovare casa? Facile. Suggerisco Facebook, ci sono molte pagine con annunci su stanze o appartamenti, ci sono siti specializzati come Malta Park, oppure se non conoscete Malta vi consiglio di rivolgervi ad un agente immobiliare che vi aiuterà a trovare la giusta casa. Però ovviamente ci sono dei costi, un agente immobiliare vi richiederà una commissione che di solito è pari a metà dell'affitto. In più, quando affittate una casa dovete pagare la caparra, quindi ci vuole un budget prima di spostarsi a Malta, non pensate di venire senza budget. In un flash, Andrea, perché chiedere la residenza entro i primi 6 mesi di lavoro? Cittadini UE non hanno bisogno di un permesso di lavoro, in più nei primi 6 mesi si è considerati turisti, però io consiglio sempre. Se volete lavorare a Malta e se trovate un lavoro, immediatamente richiedete la residenza, iscrivetevi all'AIRE, così risparmierete molti problemi burocratici in futuro. E allora Andrea, ringraziandoti per i numerosissimi consigli che ci hai regalato in questi minuti insieme sulle frequenze di Radio 24, la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Guarda, io gli consiglierei di formarsi, osare, di non farsi in qualche modo intimidire dagli insuccessi che ci saranno soprattutto all'inizio. Malta è una terra dove non si aspettano le opportunità ma si creano. Se viene con questa mentalità avrà successo. Anzi, dico una cosa, lo aspetto e sarà per me un piacere vedere un altro italiano di successo a Malta. Bene, lasciamo ora il nostro ospite della settimana e diamo spazio alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro oltre confine. Torna oggi a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora subito cosa ha da dirci. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento al mondo del cosiddetto IoT, cioè l'Internet of Things, o ancora Internet delle cose, ma forse sarebbe più corretto definirla Internet degli oggetti. Ci sono infatti gli oggetti intelligenti, i cosiddetti smart objects, alla base dell'Internet of Things, e non stiamo parlando soltanto di computer, smartphone o tablet, ma soprattutto degli oggetti che ci circondano all'interno delle nostre case, al lavoro, nelle città, nella vita di tutti i giorni. L'Internet of Things nasce proprio qui, dall'idea di portare nel mondo digitale gli oggetti della nostra esperienza quotidiana. Questo è un mondo oggi in forte crescita e pertanto di sicuro interesse in ottica di nuove opportunità di lavoro in giro per il mondo. E allora andiamo ad esplorare quelle che secondo Glassdoor sono le migliori aziende al mondo in questo ambito per il 2020. SEEK, Schneider Electric, Nvidia, Arm e SAP sono le 5 migliori società di Internet of Things IoT per cui lavorare nel 2020. A queste seguono nomi ben più noti come Microsoft, Cisco Systems, Dell Technologies, HMI, Siemens, Software AG, Wind Rider e Intel. La SEEK, sul gradino più alto del podio, con headquarter a Seattle, Washington, offre opportunità per ingegneri come Senior Application Development Engineer, Software Engineer, Analytics Engineer, Process Engineer, Software Development e Software Support Engineer. Le vacanze sono in USA, Texas, Houston, Bengaluru, India, Kenya, Romania e Malesia, ma anche possibilità per molte figure di lavorare in virtual asset nonché da remoto. Schneider Electric al secondo posto presenta ben 1.010 offerte di lavoro calde sparse in ogni continente, di cui molto in Europa, Corea e Cina, figura IT e digital ma anche in ambito HR e security. Medaglia di bronzo per Nvidia, azienda californiana, presenta ben 742 opportunità in California, Israele ma anche UK e India per figure come Senior Product Manager Gaming, Platform Product Manager, Senior Chip Design Expert, Silicon Solution Lead, IT Audit Manager ma anche Senior Recruiting Manager, Director Storage Operations, Partner Business Development. Volendo scorrere rapidamente anche le più note, troviamo SAP con 987 opportunità davvero ovunque, figure in ambito digital IT, sia senior che junior. Microsoft con 3.800 figure, di cui poco più di 200 tra studenti e laureati di recente, e il resto 3.600 più senior con esperienza. Cisco ne vede 1.115 vacanze aperte a livello global, di cui 950 con esperienza e il resto junior o neo graduate. Confrontiamo inoltre ben 2.995 per Siemens e altre 2.000 63 per Dell Technologies. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta nelle Filippine. Sentiamo. L'arcipelago delle Filippine è una repubblica democratica con più di 7.000 isole nell'Oceano Pacifico. L'inglese è la lingua ufficiale. Il costo della vita è ancora contenuto e per queste ed altre ragioni che stiamo per vedere è una meta ideale per imprenditori globali, nomadi digitali italiani che possono trovare facilmente spazi di co-working, acceleratori tecnologici e incubatori. Famoso quello di Cerebro Labs a Makati City o quello di DevHub a Davao City e quello di Aspace a Cebu insieme a diversi altri. Le Filippine sono attraenti per due ragioni: il sistema fiscale e i programmi per trasferire la residenza. Il sistema fiscale delle Filippine è territoriale. Tutti coloro che vivono nel territorio per almeno 183 giorni hanno la residenza fiscale e quindi non pagano imposte sui redditi esteri, una configurazione ideale per tutti gli imprenditori digitali. I programmi per trasferire la propria residenza fiscale sono anch'essi molto interessanti. Il governo filippino ha voluto catturare gli interessi di chi ha appena compiuto 35 anni. Già a questa età uno straniero è considerato ritirato e per 10 anni può vivere nel territorio libero dall'obbligo di pagare tasse. Il beneficio si estende a coniugi e figli e può estendersi a vita. Il programma per trasferire la residenza si chiama SRRV, Special Resident Retiree Visa. Si tratta di visti che, pur non essendo rivolti esplicitamente ad imprenditori, permettono a persone che hanno e sviluppano il proprio business digitale di ottenere la residenza fiscale con requisiti piuttosto accessibili. Il programma SRRV contempla 5 tipi di residenza per stranieri. Quelli adatti per gli imprenditori sono i due seguenti: Smile, necessari almeno 35 anni d'età, il versamento di un deposito di circa euro 18.000 in una banca accreditata PRA, Philippines Retirement Authority, e Classic, versamento di un deposito che deve essere investito nell'acquisto di una casa o in un affitto a lungo termine. La somma da depositare dovrà essere di 45.000 euro se il richiedente ha un'età da 35 a 49 anni, mentre se l'imprenditore globale ha più di 50 anni il versamento si riduce a 18.000 euro per i non pensionati. Le Filippine hanno stipulato la convenzione con l'Italia contro la doppia imposizione nel 2013 e ratificato la convenzione con la legge numero 152 del 2017. Questo paese lontano può essere molto vicino agli imprenditori globali italiani. A presto! Bene, chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate in particolare di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da regalare? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.